Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Madagascar con Enrico Brizzi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Bologna. Sto per incontrare la persona che anni fa mi ha tenuta incollata alle pagine di un libro dal titolo curioso. Jack Frusciante è uscito dal gruppo. È Enrico Brizzi e oggi mi farò portare dall'autenticità dei colli bolognesi alla poesia del Madagascar. Nome: Madagascar. Capitale: Antananarivo. Confini: stato insulare situato nell'Oceano Indiano, al largo della costa orientale dell'Africa di fronte al Mozambico. Superficie: 587.041 km². Abitanti: 16.473.477. Clima: il Madagascar può essere suddiviso in base all'altezza e alla latitudine in tre zone climatiche. Lungo le coste troviamo una fascia di clima tropicale caldo e umido. Negli altopiani interni il clima è temperato, mentre la regione meridionale del paese presenta un clima semidesertico, secco e arido. Forma di governo: Repubblica Presidenziale. Lingua ufficiale: malgascio e francese. Il francese è diffuso nelle città principali, meno nelle aree rurali. Fuso orario: 3 ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich e 2 ore avanti rispetto all'Italia. Documenti: passaporto con validità di almeno 6 mesi, visto. Moneta: ariary malgascio. 1 euro uguale 2762,09 ariary malgasci. Religione: maggioranza cristiana cattolica. È presente anche una minoranza musulmana. Molto diffuse sono ancora le religioni e le credenze tradizionali. Prefisso internazionale: più 261. L'appuntamento è in un ristorante greco nel centro di Bologna. Bizzarro, viene da pensare, ma conosciuto il personaggio ci sta. Con lui c'è anche Samuele, la persona con la quale ho preso accordi per fissare l'intervista. Fortunatamente la sala è abbastanza silenziosa da permetterci una buona registrazione. Cerco nei pressi del tavolo una presa di corrente per attaccare il mio registratore. Eccola, non proprio comoda, ma io sono pronta. Quando vuoi puoi partire, gli dico. E soprattutto, da dove nasce questo amore per il Madagascar? La mia fascinazione per il Madagascar è nata da bambino insieme alla fascinazione per le mappe. E in particolare penso al tabellone sul quale vedevo i miei zii e i cugini più grandi giocare a Risico. C'era quest'isola abbastanza grande da costituire un territorio a sé nel gioco, al largo della costa sudorientale dell'Africa, e aveva un nome pittoresco che mi sembrava evocare lo stesso mondo in cui si potevano trovare Monpracem o altri luoghi salgariani di quelli che trovavo nei libri dei quali mi nutrivo, e faceva pensare anche a un altro libro, al Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne, anche se avrei avuto la delusione di scoprire che Fogg non passava affatto dal Madagascar e anche così arrivava per un pelo. Anche per Enrico gli scrittori sono ottimi compagni di viaggio, addirittura sin da bambino, quando con Salgari è nato il suo primo amore per il Madagascar. Lui è come me l'immaginavo e nel suo modo di raccontare sembra esserci ancora la magia e la curiosità del fanciullo che sbirciava gli zii a giocare a Risico. Anni dopo mi sono trovato a conoscere delle persone che su quella che chiamano l'Isola Rossa c'erano stati veramente. Il primo, se non sbaglio, era un collega di mio padre all'università, in particolare un religioso che era stato missionario laggiù ed era tornato con il racconto di un posto che semplicemente era scollegato dal punto di vista delle comunicazioni con il resto del mondo, con la stessa Africa e quindi di conseguenza anche con la possibilità di farsi sentire in Europa. E crescendo ulteriormente ho conosciuto invece dei miei simili, dei ragazzi un po' più grandi di me che in Madagascar c'erano stati come avrei fatto io, con uno zaino in spalla e una guida essenziale di un paese che è vasto tre volte l'Italia e ospita a malapena 18-20 milioni di persone a seconda delle stime che vengono fatte sui censimenti. Quindi un paese enorme e che si presenta già per la sua natura come un invito a un viaggio avventuroso, a un viaggio fuori dagli schemi delle agenzie. Anche se il viaggio zaino in spalla può sembrare non adatto a tutti, nelle parole di Brizzi si intuisce che l'avventura è quasi una necessità se ci si spinge fin laggiù nell'Isola Rossa. Isola Rossa perché il terreno è costituito in larga parte di laterite, rossa appunto, che viene trasportata al mare dai numerosi fiumi. Tutto diventa rosso, il suolo, l'acqua, il cielo del tropico, all'alba e al tramonto. Ma i colori che ci aspettano sono anche altri. Nella fattispecie parliamo di un'isola che, come ho detto, è grande circa tre volte il nostro paese, al largo delle coste del Mozambico, quindi parliamo della costa africana sull'Oceano Indiano, e che presenta una varietà enorme di paesaggi. Al centro, nella regione degli Altopiani, ci sono foreste fitte, quasi impenetrabili, nella prima corona di alture, diciamo, mentre il centro è costituito da altopiani coltivati. In particolare il paesaggio è segnato a occhio dalla coltivazione intensiva del riso, per cui a seconda delle stagioni si vedono risaie allagate a perdita d'occhio o piuttosto in attesa di essere colmate d'acqua, e i ciuffi verdi brillanti della pianta del riso sono la visione più comune in questa regione, che è occupata dall'etnia dominante del Madagascar. È il primo posto che si vede arrivando, visto che l'unico aeroporto internazionale è quello della capitale, che tutti chiamano laggiù Tana, ed è l'abbreviazione di Antananarivo, che significa la città dei 10.000 guerrieri, perché l'etnia dominante di fatto nella storia dell'isola è quella dei chiamata dagli europei Merina, si presenta come tratti somatici molto simili a quelli degli indonesiani, e il loro mito fondativo, poi questa somiglianza è stata confermata in tempi moderni tramite le analisi del DNA, il mito fondativo di questa gente è quella di una lunghissima migrazione via mare a bordo di piroghe, simili a quelle che si usano ancora oggi intorno alle coste del Madagascar, da una terra lontana dove prima vivevano in pace, che sembra essere con ogni evidenza una qualche isola dell'arcipelago indonesiano, e quindi con vele rudimentali e pagaie essenzialmente. Una parte di questo popolo, che forse venne cacciato in seguito a una guerra dalla terra natia, arrivò attraversando l'intero Oceano Indiano sull'Isola Rossa, di cui prima occupò le coste e poi si trasferì verso l'interno via via che appariva chiaro che le terre coltivabili si trovavano sulle alture. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Madagascar con Enrico Brizzi. When I walk beside her, I am the better. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo sull'Isola Rossa, ovvero il Madagascar, in compagnia di Enrico Brizzi. Il viaggio è appena cominciato, ma sembra già tutto molto avventuroso, a partire dal nome della capitale, Antananarivo, che significa città dei 10.000 guerrieri. Oggi il Madagascar è popolato da 18 etnie diverse, in parte molto distinte fra loro, in parte affini. E in particolare, sì, l'errore, diciamo, più comune di chi non conosce l'isola è immaginare che la popolazione sia nera come etnia, mentre lo è soltanto un'etnia che si trova sulla costa occidentale, quella rivolta verso l'Africa. E questo popolo in particolare si chiama dei Sakalava e sono presenti molti altri popoli, per esempio in tutte i centri costieri dotati di qualche importanza commerciale, il commercio è saldamente in mano a indiani etnici che si sono trasferiti sull'isola in tempi storici recenti. Ci sono minoranze arabe date dalla vicinanza con il vecchio sultanato di Zanzibar, che è la meta turistica, diciamo, più vicina per chi si dirige in aereo da quelle parti. E un aspetto interessante, al di là delle etnie così variate, è quello della religione. Incredibile, ma sto scoprendo che in questa parte così a sud del mondo c'è un legame particolare con la parte più a nord del globo terracqueo. Un filo fatto di amicizia e benevolenza che unisce gli antipodi. Madagascar è stato, proprio per il suo isolamento, fino a tempi molto recenti, popolato da persone che professavano religioni diverse fra loro, ma tutte legate al culto della terra e degli antenati, che sono ancora ben presenti sull'isola. Ma dall'Ottocento in poi è stata anche una sorta di terra di conquista per i missionari che, avendo già saturato gli altri luoghi a disposizione di quello che oggi chiamiamo il terzo mondo, sono riversati in Madagascar dalle parti più diverse, per cui avevamo missionari cattolici, nella fattispecie frati, e missionari protestanti che arrivavano dai paesi del cristianesimo riformato, quindi sia scozzesi e di altre zone del mondo anglosassone, sia in particolare tanti norvegesi e svedesi. Per quanto sembri strano, ci sono dei legami forti tra i paesi scandinavi e il Madagascar, che, per chi non lo sapesse, è uno dei paesi comunque più poveri del mondo, per cui debitore ogni anno di aiuti molto consistenti che arrivano dalla benevolenza, diciamo, di singoli paesi, oltre che dal Fondo Monetario Internazionale. Per cui l'amicizia tra la Svezia, la Norvegia e gli abitanti dell'Isola Rossa data da più di un secolo. Café vanille ou chocolat, qui choisis-tu, choisis pour moi. Café vanille ou chocolat, ça m'est égal, n'importe quoi. Dopo aver scoperto che soprattutto Svezia e Norvegia hanno a cuore il Madagascar, chiedo a Enrico che mi parli invece del ruolo della Francia, visto che tra le lingue ufficiali, oltre al malgascio, c'è anche il francese. Quando i missionari arrivarono, Madagascar era ancora un regno indipendente, nella fattispecie sottoposto a una regina, la regina che regnava Antananarivo. Poi, verso la fine dell'Ottocento, arrivarono i francesi, che fecero conoscere all'isola l'unico periodo di dominazione coloniale. Erano guidati dal generale Gallieni, lo stesso che avrebbe poi salvato Parigi con i taxi nel famoso episodio della Prima Guerra Mondiale qualche anno dopo. Ed ebbero delle perdite enormi, quasi tutte dovute alle malattie che infestavano le foreste, e al semplice fatto di doversi adattare a un clima tropicale a cui molti degli uomini non erano affatto preparati. Ancora oggi può capitare che in alcune regioni ci siano per gli europei delle difficoltà di adattamento, penso soprattutto alle zone in cui la foresta è più fitta, ma questo non diversamente da altri paesi lontani, almeno per noi. Il legame coi francesi è piuttosto differente da quello con la Scandinavia. Del resto, come si poteva pensare che un luogo così bello non fosse stato oggetto di conquiste nella storia? Ora però è arrivato il momento di metterci il nostro zaino in spalla e di incamminarci per visitare tutte quelle zone che sono fuori dai soliti percorsi turistici. Il mio accompagnatore sembra sapere il fatto suo. Lo seguo senza indugio. La prima volta sono andato in Madagascar quasi per prova. Sono stato lì 3 settimane e il primo posto che ho conosciuto dopo la capitale è stata quella che è la meta classica dei turisti, cioè l'isola di Nosy Be, poche miglia al largo della costa nord-orientale dell'isola, dove la maggior parte dei voli turistici fanno scalo. E è un magnifico posto di mare, ma la vera scoperta è iniziata quando mi sono spostato nell'entroterra, un entroterra appunto sterminato e che nemmeno una strada percorre per intero da nord a sud. Sono questi 3.000 chilometri della strada nazionale numero 1, che è un nome così molto altisonante e che promette continuità, che in realtà cominciano come una strada mista tra asfalto e terra rossa, che nella parte centrale dell'altopiano diventa simile a una nostra strada provinciale, e scendendo verso sud, dopo quella che è chiamata la Porta del Sud, non lontano dal parco naturale dell'Isalo, si spalanca su un ambiente semidesertico e si trasforma prima in una pista e poi in nient'altro che una traccia nella sabbia. Il sud è sicuramente la parte meno popolata e frequentata dell'intero Madagascar, anche perché è l'unica che ha effettivi problemi di approvvigionamento idrico, tutto quello che questo comporta. Per dire, sono capitati casi di veicoli di turisti rapinati semplicemente per appropriarsi delle borracce, delle bottiglie d'acqua. E la regione è la terra dei pastori nomadi di zebù, che costituiscono la ricchezza tradizionale delle famiglie malgasce, e uno dei caposaldi della loro economia e dei loro costumi. Una strada che collega l'isola da nord a sud e che dà nel percorrerla il senso di quanto sia difficile vivere in certe parti di questo paese. Sembra quasi una metafora del viaggio. Una strada che nel mutare il paesaggio circostante muta lei stessa, dando sotto ai piedi di chi la percorre informazioni aggiuntive sulla storia di questa gente, sino a diventare in prossimità della zona più dura una semplice traccia nella sabbia. Il Madagascar negli occhi di Enrico Brizzi è sempre più affascinante. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Madagascar con Enrico Brizzi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Il Madagascar è entrato in un ristorante greco nel centro di Bologna attraverso le parole di Enrico Brizzi. Mentre lui racconta, e lo vedo ripercorrere con le immagini quella che è stata un'esperienza di viaggio dalla quale è nato poi un libro, mi perdo tra la poesia di questi luoghi, poesia che diventa a tratti pura avventura. Siamo stati nella città dei 10.000 guerrieri, Antananarivo. Abbiamo solcato strade nazionali che dopo migliaia di chilometri si sono trasformate in semplici tracce nella sabbia. Abbiamo visto come la Svezia e la Norvegia abbiano un legame profondo con quest'isola, legame differente da quello che hanno avuto i francesi nella loro storia di conquistatori. Ma i racconti più incredibili devono ancora arrivare. La prima cosa che ho visto quando sono sbarcato in Madagascar la prima volta, appena uscito dall'area dell'aeroporto, nelle campagne intorno a Tanà, è stato un corteo di gente che marciava al suono di canti e strumenti tradizionali, allegramente, trasportando quella che mi sembrava una barella, alta sopra le teste dei portatori, i primi della fila. Il traffico era rallentato da questo corteo di gente, per cui abbiamo costeggiato a passo d'uomo e mi sono reso conto che quella che sembrava una barella con un ferito in realtà trasportava una mummia. E il ragazzo che guidava la macchina mi ha spiegato che da quelle parti è la cosa più normale del mondo, le famiglie, chi ogni 5 anni, chi ogni 7 anni vanno, equivalente del loro camposanto, disseppelliscono il parente e riportano a casa il nonno, lo zio, e chiunque abbia lasciato questa terra lo riportano a casa, mostrano il fondo agricolo e le migliorie, parlandogli come se fosse ancora qui, le migliorie che sono state fatte, per esempio, vedi, abbiamo costruito il recinto nuovo, oppure la nipotina si è sposata, oppure sono nati altri due figlioli, oppure, visto l'intervallo di tempo, forse anche 12 figlioli. Cos'è poi la normalità? È certo che la morte fa parte del ciclo naturale della vita. Ci sarebbe poco da stupirsi anche per noi di certe manifestazioni, se non fosse che sono intervenuti secoli di cultura a inquinarci l'istinto. E Madagascar è uno dei paesi con l'età media più giovane, per cui una delle prime cose che colpisce, a parte queste manifestazioni di devozione che all'inizio ci lasciano ovviamente a bocca aperta, è la quantità di giovanissimi che si vede per la strada. All'una, l'orario in cui chiudono le scuole, che sono diffuse ovunque, Madagascar ha un passato piuttosto lungo di paese socialista in cui era alleato prima con l'URSS, poi con la Cina, poi ha disconosciuto anche la Cina ed è rimasto per un breve periodo alleato solo della Corea del Nord prima di dover dichiarare la bancarotta completa, ovviamente. E però dell'esperienza socialista è rimasta l'alta idea che si ha dell'educazione pubblica, per cui anche nel villaggio più sperduto si vedono i ragazzini con l'uniforme, un po' come a Cuba, col fazzoletto al collo e l'uniforme della scuola pubblica, e persino nei villaggi di pescatori sulle spiagge vedi la lavagna piantata sulla sabbia e i ragazzini all'ombra delle foglie di banano o di ravinala, che è l'albero, la pianta, diciamo, emblema nazionale del Madagascar, che è raffigurata anche sulla coda degli aerei della compagnia di bandiera. La ravinale essenzialmente è una felce con un tronco d'albero, e l'esperienza comune che si ha camminando nella foresta pluviale malgascia è proprio di notare specie vegetali che da noi esistono, ma sono grandi magari dai 10 ai 30 centimetri, e vederle grandi tra i 5 e gli 8 metri. E l'impressione è quella di camminare nella preistoria per certi versi. E la presenza dei lemuri, questi animali unici che tutti i bambini oggi conoscono proprio grazie a una fortunata serie di animazioni che è presente in tante case, sono il tocco che aggiunge l'inaudito veramente alla sensazione di camminare in una foresta simile a quella di decine di migliaia di anni fa. Viaggio nello spazio che diventa improvvisamente anche viaggio nel tempo. Che posto incredibile deve essere quest'isola russa. Adesso capisco perché tanta voglia di raccontare proprio del Madagascar per un viaggiatore instancabile come Enrico Brizzi. Dormendo nei lodge, nella foresta, la mattina si viene svegliati da quella che sembra una sirena e che in realtà è il grido dell'Indri Indri, che è il lemure più grosso, alto circa un metro, e che se ne sta appollaiato in cima agli alberi senza mai scendere a terra, perché è terrorizzato giustamente dall'uomo che, quando gli mette le mani sopra, lo cattura e lo esibisce. E quindi anche, oltre ai colori, agli odori della cucina, anche i suoni sono qualcosa di mai provato prima. Qui dicevo che il primo viaggio è durato 3 settimane, ma quando sono tornato in Europa non mi ero levato assolutamente il bisogno che avevo di conoscere meglio questo mondo diverso da tutti quelli che avevo mai visto prima. E al più presto, mi pare sì, l'anno dopo, ci sono tornato portandomi dietro un po' di lavoro, diciamo, e sono riuscito a starci 4 mesi girando tutte le regioni, effettivamente. Nel corso di questo suo secondo viaggio mi racconta che il contatto più stupefacente è stato quello con la spiritualità di questa gente, perché oltre all'influenza cristiana si trovano comunque tradizioni antichissime che non stupiscono forse chi conosce i paesi del Centro America o dei Caraibi, paesi dove il cristianesimo si è innestato su un substrato antichissimo di culti di origine africana. Insomma, adesso senza entrare nel misticismo più alieno alla tradizione europea, quello che voglio dire è che il sincretismo, la mescolanza di influenze che arrivano in un caso dalla Palestina di 2000 anni fa, nell'altro da qualche luogo a noi ignoto nell'Africa di molto tempo prima, producono degli effetti davanti ai quali noi restiamo turbati e affascinati e sentiamo il bisogno di provare a saperne di più. Ma per quanto ci facciamo amici dei malgasci o veniamo lasciati accostare a determinate cerimonie o rituali, ovviamente restiamo dei vasà, dei bianchi che non capiscono i fadi, che sono le proibizioni rituali. Per esempio, in molti luoghi del Madagascar non si può andare con addosso i pantaloni, perché i pantaloni sono considerati il capo distintivo dei francesi, dei colonizzatori che li hanno massacrati. Quindi anche gli uomini sono tenuti a portare in certi luoghi solo un pareo, essenzialmente, e in altri luoghi non si può mangiare, perché magari lì è successo qualche cosa a un antenato di stupefacente, negativo, mentre stava mangiando. Certe famiglie non lavorano mai il martedì o il venerdì, per cui anche il fatto di cercare di regolare la società si confronta di continuo con proibizioni momenti inaggirabili della loro vita interiore, con le quali nessuna logica moderna può scendere a patti veramente. Si bea iaie, fa saudia vo sunguna, fa papiro fecillai. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Madagascar con Enrico Brizzi. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Stiamo per concludere il nostro viaggio in Madagascar in compagnia di Enrico Brizzi, che per l'intervista mi ha dato appuntamento in un ristorante greco. Purtroppo ci siamo fatti prendere dai racconti e non ci siamo accorti che in sala siamo rimasti solo noi e i proprietari, che da tanto tempo stanno cercando di attirare la nostra attenzione. Approfittando di un momento di pausa, si è avvicinata la signora per dirci che devono chiudere. Ci sono però ancora alcune cose che voglio sapere su questo paese, così decidiamo di interrompere per qualche minuto il flusso di emozioni che dalla sua voce si imprimono direttamente nel mio registratore e ci trasferiamo in un bar. Qui non siamo soli e il silenzio non è quello di prima, ma siamo ormai così dentro al viaggio che nulla ci disturba. Sappiamo che per gli italiani quando si spostano in viaggio l'argomento della cucina è sempre un tasto delicato. Ci spostiamo da un paese dove si mangia benissimo e temiamo di trovarci a mal partito. Allora vorrei rassicurare tutti gli amici dalla vetta d'Italia a Capopassero che se decidono di muoversi verso il Madagascar si può dire che sostanzialmente cadranno in piedi, nel senso che come tanti paesi che hanno subito un periodo coloniale sotto l'influenza francese, è un paese dove è ben sviluppata l'arte culinaria. Nella capitale ci sono ristoranti di vero alto livello e quello che è più interessante è che c'è proprio un livello gastronomico medio piuttosto alto dappertutto. E per dare un'idea della gamma di piatti, forse può essere utile pensare alla cucina indiana, all'idea di comunque intingoli a base di carne o pesce, con salse a base vegetale, a volte saporite, a volte piccanti, a volte atomiche, ed è possibile, vista la fauna del paese e le tradizioni gastronomiche differenti nelle varie aree, mangiare bene. Beh, e come non parlare del cibo, specchio di storia e cultura e, come dice Enrico, anche discriminante a volte nella scelta di certe mete, soprattutto per gli italiani. Naturalmente ottimo pesce in tutte le regioni costiere, il problema dell'inquinamento del mare non esiste da quelle parti, e però è possibile anche assaggiare pietanze altamente discutibili come il filetto di pappagallo o la bistecca di coccodrillo. Lì ognuno, diciamo, si dovrebbe fermare ascoltando i propri principi etici prima di cedere alla curiosità più sfrenata, io credo. E stranamente, per quello che io stesso credevo arrivando, oltre a essere un'isola famosa per il rum, parlo qui soprattutto di rum artigianali più che rum sigillati in bottiglia che puoi trovare distribuiti in una rete di supermercati. È un'isola dove si produce anche del discreto vino, in particolare vino Becileu, che è il nome di una delle etnie del paese, ed esiste Becileu bianco, grigio e rosé persino. Tutti e tre consigliati e vari abbinamenti possibili di cucina locale. Per quanto riguarda lo spirito, dei malgasci. Si può dire che l'accoglienza ha a che fare con la tradizione che ha ogni singola regione e provincia nei confronti dell'arrivo di forestieri. A Nosy Be quello che accade è simile a quello che accade in qualunque luogo turistico del mondo. Non immaginatevi l'acquafan o gli scivoli o le discoteche aperte alle 4 del mattino, naturalmente, però per gli standard locali si tratta già di industria turistica e quindi non si troverà ovviamente niente di illuminante sulla società del Madagascar. Però Madagascar, Nosy Be è un'isola che si può girare in bicicletta in un giorno. Madagascar, come abbiamo detto già abbondantemente, è un'isola che da nord a sud misura 3.000 km e che ha spazi enormi al suo interno. Per cui l'invito è proprio, per scoprire la sua popolazione, di disegnarsi, costruirsi un itinerario che permetta di toccare il numero più alto possibile di regioni sull'isola principale, insomma. Stiamo per posare il nostro zaino in spalla e tornare alla realtà. La mia curiosità è stata così sollecitata che non posso non chiedere se esiste per lui un luogo imperdibile nell'isola russa. Prima di dirmi dov'è, mi fa promettere che se dovessi mai fare un viaggio in Madagascar, devo andarci sul serio. Non è difficile dare la mia parola, dopo tutto quello che mi ha raccontato. La regione in cui si trova quello che reputo il luogo imperdibile del Madagascar è immediatamente a ridosso della sua costa orientale, quella affacciata sull'aperto dell'Oceano Indiano, ed è la regione attraversata dal canale delle Pangalanes, un canale in parte naturale e in parte adattato artificialmente, che corre per centinaia di chilometri parallelo alla costa, determinando una striscia di foresta lunga e sottile che si estende da nord a sud e ripara queste acque chiuse dall'aperto della marea. È un canale navigabile che viene percorso quotidianamente in piroga per tutti i traffici tradizionali, ma anche da pilotine che svolgono servizio di trasporto pubblico, ed è possibile dalla città di Tamatav, che si trova alla testata nord del canale essenzialmente, inoltrarsi verso sud lungo questo sistema di appunto corridoio d'acqua che in certi punti si allarga a comprendere delle vere e proprie lagune o bracci di mare che sono ormai rimasti isolati da cordoni di sabbia dal mare aperto. A circa 3 ore di navigazione a sud di Tamatave si apre questa laguna irreale che si chiama in lingua locale Akanini Nufi, che significa il nido dei sogni, ed è un posto dove effettivamente la fantasia si sente cullata e ognuno di noi, anche nato molto lontano da lì, per qualche magica via si sente a casa e vicino alle persone che gli sono care. Ed è un luogo a cui ho cercato di rendere giustizia in un libro che ho pubblicato 7-8 anni fa, ambientato in Madagascar, che si chiama Razzorama, e che, essendo il mio libro ambientato in un mondo più remoto e meno conoscibile rispetto all'Italia, è stato anche il mio romanzo meno capito, ovviamente meno di buoni esiti dal punto di vista commerciale, ma sono contento in ogni caso di avere lavorato su una storia che ha a che fare con quella che alle nostre menti razionali sembra autosuggestione o, nella migliore delle ipotesi, una magia che non capiamo, e che invece dal mio punto di vista, come tutto quello che promana dalle foreste, dalle risaie e dalle lagune dell'Isola Rossa, ha a che fare con il sogno che ognuno di noi aveva da bambino di trovare un posto incontaminato, un posto in cui muovere mano nella mano con la persona con cui vorremmo essere in quel momento e dimenticare la civiltà cartesiana che è rimasta a casa in Italia. Per seguire i progetti di Enrico Brizzi potete visitare italica150.org e brizziguerra.com. Mazia anaua sacire la visa.